Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di un tipo particolare di economia che dovremmo avere un po' a cuore tutti, è l'economia della pace. Lo facciamo con il professor Raul Caruso. Buonasera, professor Caruso. Buonasera. Raul Caruso insegna politica economica e economia internazionale all'Università Cattolica di Milano, dirige negli Stati Uniti la rivista specializzata Peace Economy, collabora al quotidiano Avvenire ed ha scritto per Il Mulino il libro, appunto, Economia della pace. Che cos'è l'economia della pace, Raul Caruso? L'economia della pace è una branca dell'economia che si occupa di due cose sostanzialmente. In primo luogo si occupa di scoprire, di disvelare le cause economiche dei conflitti armati e i costi dei conflitti armati intesi in maniera molto ampia, e poi si preoccupa di elaborare delle politiche economiche che possano rimuovere le cause dei conflitti armati. E quindi è il contrario dell'economia della guerra, anche se deve tener conto infatti che ogni tanto la guerra avviene. Ecco, molto spesso si vede la guerra come qualcosa che può anche risolvere dei problemi, può rilanciare l'economia. Questa è un po' un luogo comune? Questo è un luogo comune sbagliato. Io nel libro, in alcune interviste, ho fatto riferimento a questo come alla grande menzogna. Questa è una grande menzogna di matrice nazista che fu popolarizzata dai gerarchi di Hitler e che poi è rimasta misteriosamente un po' nell'immaginario collettivo. In effetti è una menzogna bella e buona, perché la gran parte degli studi effettuati dagli economisti negli ultimi anni, dagli economisti che si sono focalizzati su questi aspetti, hanno verificato che la guerra non può essere un rilancio dell'economia in alcun modo. Ecco, ma ci dice anche che l'industria militare sia un'industria che porti ad innovazione. La stessa realtà di Internet viene vista come un frutto delle ricerche in ambito militare. In fondo anche questo può essere un portato positivo dell'economia della guerra. Questa è un'altra inesattezza. L'industria militare non innova, bensì ritarda l'innovazione, per il semplice motivo che noi tutti capiamo che se lavoriamo per produrre dei nuovi armamenti, soprattutto se tecnologici, non li metteremo sul mercato appena disponibili, ma li metteremo sul mercato solo quando ci saranno utili per sconfiggere un nemico. Quindi, a differenza dell'imprenditore privato che innova non appena l'innovazione è pronta, la ricerca militare poi si traduce in innovazioni solamente quando c'è una guerra, in primo luogo. Poi la ringrazio per la domanda su Internet. Anche questa è una falsa verità che si è diffusa ma non ha fondamento. La stessa società che cura la storia di Internet precisa questa cosa: Internet è nato per motivi scientifici. In verità cosa è successo? È successo che poi a un certo punto l'amministrazione militare ha voluto utilizzare Internet negli Stati Uniti pensando a un'applicazione per la difesa, ma purtroppo quell'Internet, quella rete poi non ha avuto successo, e in parallelo gli scienziati americani si erano riorganizzati, avevano chiesto nuovo finanziamento alla Fondazione Nazionale delle Ricerche Americana, un po' il nostro corrispondente al nostro CNR, che ha finanziato con tanti milioni di dollari la costruzione di una nuova rete. La rete su cui oggi noi viviamo la nostra vita digitale è la rete che è stata ristrutturata dagli scienziati americani e non dai militari. Quindi l'idea che ai militari noi dobbiamo un che di gratitudine per Internet è un'idea sbagliata. Ecco, allora, sfatati questi due miti sul fatto che la guerra sia un fattore che produce una crescita economica e che anche l'industria militare possa produrre innovazione meglio dell'industria di pace, guardiamo un po' alla realtà della situazione attuale, cioè come è possibile sviluppare appunto un'industria di pace, un'industria che comunque è più produttiva, si confronta di più con il mercato. L'industria militare è un'industria che non si confronta con il mercato, che deriva solo da scelte statali, quindi che è caratterizzata anche da una forte efficienza, da forti sprechi, quindi anche da un profilo proprio, direi, economico, al di là degli aspetti morali che sono ovviamente vanno tenuti al primo posto, perché la pace è un valore che dovrebbe essere ineliminabile, ma anche da un profilo strettamente economico, la produttività, la razionalità, l'efficienza è di un'economia della pace, professor Caruso? Assolutamente sì. Quello che va fatto non è una rivoluzione dell'economia, ma è solamente un riaggiustamento anche di alcune interpretazioni che abbiamo dell'economia. Lei ha citato la parola magica, produttività. Se noi invece di guardare semplicemente alla crescita del PIL ogni 3 mesi, guardassimo alla crescita della produttività nel lungo periodo, con gli strumenti che già abbiamo, senza inventarne di nuovi, saremmo già nell'economia della pace come impostazione, perché l'economia della pace è innanzitutto come impostazione quello di divenire produttivi in un periodo lungo, perché se sei produttivi in un lungo periodo, nei fatti siamo anche più floridi, produciamo nuovo valore aggiunto, produciamo nuova ricchezza. Quindi il primo aspetto è saper misurare quello che facciamo, no? In secondo luogo, evidentemente, l'investimento su cui si deve puntare, perché come ha detto giustamente lei, la spesa militare è in fondo una spesa improduttiva, una spesa che è legata solamente a commesse statali, nella maggior parte dei casi, non possiamo far altro che far quello che tutti annunciano ma che poi pochi fanno, cioè vale a dire rafforzare gli investimenti nella vera fonte di produttività, cioè vale a dire l'educazione. L'educazione a tutti i livelli, a partire dai livelli prescolastici attuali ai livelli universitari. Non è un caso che le economie che hanno negli anni sviluppato maggiori investimenti in educazione a tutti i livelli sono anche le economie che potremmo definire più pacifiche e allo stesso tempo anche più produttive. Ecco, parlando di economie, il libro mette giustamente in risalto il fatto che la cooperazione internazionale, se non la globalizzazione, sia nei fatti un'economia della pace, dove ci sono gli scambi commerciali, dove c'è l'apertura dei mercati, non passano le armi, non si pensa a conflitti armati. Ecco, in questa prospettiva sicuramente si sono fatti molti passi avanti, soprattutto in Europa, negli ultimi anni, però siamo in una fase in cui la stessa globalizzazione è vista in maniera un po' critica. Questo un rischio per l'economia della pace? La globalizzazione e il mercato libero è sempre stata vista con un occhio critico, anche 200 anni fa, quindi non è una novità. Quindi se qualcuno pensa che questa critica che si ha della globalizzazione sia caratteristica del nostro tempo, si sbaglia. E la critica al libero mercato è cominciata 300 anni fa, quindi, come dire, abbiamo una storia di critiche sconfessate, ecco, diciamo così. Se c'è un rischio, certo che c'è un rischio. Purtroppo la crisi economica ha portato a una maggiore chiusura da parte degli stati, perché è comprensibile che quando le crisi sono così virulente e così contagiose, è comprensibile che portatori di interesse all'interno degli stati cerchino protezione e quindi gli stati tendono a chiudersi. Abbiamo un rallentamento dell'apertura commerciale, abbiamo dei richiami al protezionismo, l'abbiamo letto sui giornali recentemente, e sì, è sicuramente un pericolo, perché poi storicamente quello che sappiamo è che al protezionismo seguono le guerre, cioè in genere alla chiusura, alla mancata integrazione economica tra paesi vi è un aumento delle ostilità, segue un aumento delle ostilità. Ecco, bisognerebbe leggere, appunto, lei lo fa, ricorda per esempio nella conclusione del libro la storia europea che già dopo la prima guerra mondiale aveva messo in luce la possibilità di nuovi accordi, e lo stesso Keynes in quel libro molto citato ma forse poco conosciuto, Le conseguenze economiche della pace, aveva messo in luce come la prospettiva fosse un nuovo accordo fra gli stati, non penalizzare gli stati sconfitti come la Germania, come invece poi è avvenuto, e se allora forse si fosse attuata una vera cooperazione internazionale si sarebbe evitata quella tragedia enorme della seconda guerra mondiale. Ecco, poi dopo si sono fatti dei passi avanti dell'integrazione, adesso la logica della guerra è uscita dalla prospettiva europea, speriamo per sempre, però appunto la storia dovrebbe insegnare qualcosa in questo senso, professor Caruso. La storia ha molto da insegnare. La storia ha molto da insegnare, ma purtroppo non tanti la studiano. Quello che lei ha citato di Keynes è in effetti un esempio crudo per certi aspetti, nel senso che i paesi europei hanno dovuto, invece di ascoltare un consiglio che si basava, anch'esso era basato su un'esperienza storica nel libro di Keynes, oltre che di un fine ragionamento economico, gli europei hanno dovuto imbarcarsi nella più violenta delle guerre, che è stata la seconda guerra mondiale, per poi, diciamo così, imparare la lezione. Speriamo di non trovarci in una situazione simile e che la storia davvero insegni che in fondo l'apertura e l'integrazione, confermi che l'apertura e l'integrazione sono davvero il viatico per strutturare e rafforzare uno scenario di pace tra gli Stati nazione. Ecco, per concludere, professor Caruso, il libro ha una ricca bibliografia, sono soprattutto testi americani. In America, negli Stati Uniti, è forse più diffusa questo studio di questa economia della pace, forse meno in Europa. Forse possiamo fare qualche passo in questa direzione, o c'è forse da parte europea, da parte italiana, un po' di pregiudizio a parlare di economia della pace? Grazie della domanda. Sì, in Italia c'è un grande pregiudizio a parlare del rapporto tra economia e pace. Diciamo che ultimamente qualcuno ha parlato del rapporto tra economia e guerra, ma non tra economia e pace. Si sta finalmente, io cerco di dare il mio contributo nell'apertura a questi temi, colgo l'occasione per dire che ad esempio nella prossima riunione annuale degli economisti italiani vi sarà una sessione dedicata al tema dell'economia e della pace, e in effetti vi è già da 3 anni, contribuisco in questo senso, insomma, a cercare di inserirla nel novero delle discipline, delle sottodiscipline dell'economia ben conosciute e ben rispettate. Negli Stati Uniti, per il semplice motivo che gli Stati Uniti, essendo il paese leader nel mondo rispetto al tema della guerra e della pace, sono stati sempre molto franchi e diretti con se stessi, nel senso che sanno che i temi di guerra e pace sono i temi che influenzano necessariamente la nostra allocazione delle risorse, le nostre scelte di politica economica, le nostre scelte di politica commerciale a livello mondiale e così via. Quindi diciamo, era noi, essendo un pochettino un paese tra virgolette un po' dipendente da scelte delle grandi potenze, abbiamo fatto finta di ignorare che questo non fosse un tema importante. Ecco, e abbiamo forse dimostrato che è un tema importante anche con questo nostro colloquio di questa sera. Grazie professor Caruso di essere stato con noi, abbiamo parlato del suo libro Economia della Pace, edito dal Mulino, sono 280 pagine per 26 euro. Grazie anche a Filippo Reggi in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.